l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, Europa che Radio 24 vi racconta quotidianamente. Ci siamo anche noi il sabato per darvi altre sfumature, altri punti di vista, non solo la politica, non solo l'economia, ma anche altre notizie che ci danno la possibilità di respirare meglio questo clima europeo. Un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu è il portale del network radiofonico europeo che raccoglie alcune delle radio più importanti dei 27 stati che compongono l'Unione Europea. Tra l'altro è appena entrata anche Cipro, quindi insomma diamole benvenuta a questo nuovo partner. E sul portale quotidianamente vengono raccolti interviste, servizi, inchieste su quella che è l'Europa, inchieste e servizi fatti in più lingue, quindi la possibilità davvero di avere tanti punti di vista che vi offriremo anche noi oggi. Potete contattarci in diretta 349-238-6666 per gli sms. L'altra Europa è radio24.it invece, il nostro indirizzo di posta elettronica, e poi facebook.com/l'altra Europa, la nostra pagina ufficiale che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. È un viaggio che facciamo ogni settimana e oggi si parte dalla Svezia. Anledningen till att jag står här, det ska jag berätta om nu. John Rapp är gynekolog på Danderyds sjukhus. Han står just nu i personalmatsalen och föreläser för tre sköterskor som ska följa med på ett studiebesök för att se hur sjukhusets matrester blir till biogas. John Rapp har på några månader ordnat ett system med vita plastbackar för att allt matavfall från varje avdelning ska samlas in. Det handlar om 36 ton om året. Ci piace andare in giro per Europa a cercare notizie, a cercare provocazioni, a cercare idee che possono essere anche copiate e replicate nel resto d'Europa. Perché no? Beh, ci troviamo a Stoccolma, dove un medico ha avuto un'idea, se l'è presa come questione personale, raccogliere gli avanzi di cibo della mensa dell'ospedale e spedire tutto ciò in una centrale e trasformarlo in biogas da rivenderla all'azienda di trasporto pubblico. Quindi una sorta di circuito virtuoso che parte dall'ospedale e ritorna in città appunto per portare un beneficio economico ed ecologico. Un'idea che ha appunto la portata avanti, ha mosso amicizie, conoscenze, ha disturbato i politici, insomma voleva che questo suo progetto si concretizzasse. Ce l'ha fatta, i risultati sono stupefacenti, tanto che altri ospedali stanno già pensando di copiare questa metodologia. Per capire bene l'origine di quest'idea, chi è questo medico e appunto come è stata presa la sua proposta, abbiamo invitato Cristina Cappelin, corrispondente del quotidiano Dogens e della televisione pubblica svedese. Ciao Cristina. Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie, tu? Mi fa piacere, molto bene, grazie. Allora, ci ha colpito, a proposito di ospedali, abbiamo sì, anche... Sì, appunto, come senti. adesso aspettiamo che passa l'ambulanza. Ascoltami, ma sto lavorando, per questo mi trovo in mezzo alla città, dimmi. Tranquilla. Abbiamo letto questa notizia, ci è piaciuta, perché appunto, come dicevo poco fa, quando cogliamo in giro per l'Europa notizie che possono essere replicate, che possono essere stimolo per altri progetti simili, ci piace darne voce. Questo medico, chi è e cosa ha combinato? Ma guarda, anch'io devo dire, sono colpita, non forse così sorpresa come te, perché so che gli svedesi sono un po' matti, ma cioè, la cosa carina qua è che questo è un ginecologo di uno dei 5 grandi ospedali di Stoccolma, che ogni giorno vedeva come tutto quello che, cioè i resti dei pranzi eccetera, venivano mandati ad essere bruciati come tutta l'altra spazzatura, e ha avuto l'idea di raccogliere invece questi avanzi e far produrre biogas. Ha provato a coinvolgere i politici che all'inizio non erano molto interessati. Adesso, per darti un po' di dati anche, questo ospedale da solo raccoglie 40 tonnellate di avanzi, diciamo, si dice avanzi? Sì, avanzi di cibo, allora, va bene, sì. E che diventa, scusami, e adesso saranno coinvolti i 5 grandi ospedali di Stoccolma che in un anno faranno, sentito un po', 500 tonnellate di avanzi di cibo che diventano 60.000 litri di benzina bio all'anno che va all'azienda degli autobus. Per cui, insomma, è estremamente virtuosa la cosa, è molto buona, non è anche terribilmente difficile da organizzare. Mm-hmm. Ecco, da quello che ho letto sui quotidiani, inizialmente insomma, la proposta dell'oncologo era stata presa con un po' di titubanza, invece ora è riuscito a coinvolgere anche la classe politica della città. Perché questo è stato intelligente, è andato all'ospedale più grande di Stoccolma, ha raccontato la cosa. E da noi ormai l'ecologia è una specie di religione, ogni tanto estremamente anche io che sono mezza italiana, quando arrivo in estate mi chiedono quante sono le mie emissioni e comincio un po' a preoccuparmi perché non ho idea, insomma, cioè, mi sembra anche un po' esagerato, però queste iniziative lì hanno, cioè subito la gente pensa che sia un'ottima cosa e quindi ha avuto, si è sentito molto parlare dell'iniziativa, i politici hanno dovuto seguire e tra l'altro ho scoperto anche che c'è effettivamente già da parte del governo un come posso dire, una specie di meta che diciamo entro l'anno 35% di tutti gli avanzi del cibo deve diventare biogas, quindi si cerca di arrivare a questo e questa è una delle tante iniziative. Fantastico. E Cristina, cambio completamente argomento, sfogliando, cosa c'è nelle prime pagine dei giornali in questi giorni in Svezia? Qual è il tema dominante? Ma diciamo soprattutto è stato il vertice a Bruxelles, chiaramente. Certo. La paura di un crollo della zona euro e che cosa bisogna fare. Infatti ho lavorato molto perché l'interesse era grande su che cosa effettivamente si farà in Italia, se c'è da crederci che si riesce, eccetera, eccetera. C'è pessimismo? Come? C'è pessimismo? Il svedese tende all'ottimismo, sì, però certo che non è facile, tutti si rendono conto è anche vero che la parte più difficile forse è convincere la gente, per convincere la gente devi tu stesso essere convincente, quindi... Mm-hmm, sì, insomma, anche lì bisogna essere virtuosi, anche come classe dirigente, e ne parleremo fra pochissimo. Grazie davvero Cristina, come sempre, per la tua testimonianza. Ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Grazie, grazie ciao. A voi. Ciao, buon sabato. Ciao. Ciao. Un euro a Post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Qu'avez-vous dit exactement à monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Et comment dit-on, nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes, politiques, financières et économiques. Ha fatto il giro del mondo, ha fatto il giro del mondo questa domanda, ha fatto il giro del mondo questa risata, questo sorriso, questo sguardo complice tra la Merkel e Sarkozy, e l'abbiamo presa come metafora del tema scelto da Euronet questa settimana, l'Europa è sull'orlo di una crisi di nervi, la crisi non solo economica ma anche una crisi di rapporti, una crisi di relazioni, una crisi che fa saltare anche le diplomazie, insomma una crisi che sta mettendo a dura prova quelli che sono gli equilibri, e crisi del debito ma crisi dell'Europa, insomma sono tanti gli spunti che stanno minando un po' quella che è la credibilità anche delle istituzioni, ma soprattutto quello veramente che è il rapporto anche all'interno della stessa classe dirigente. E per parlare di classe dirigente europea abbiamo invitato un giornalista che è proprio di classe dirigente, non solo a livello politico, il suo discorso è un discorso allargato, appena pubblicato un libro che è un caso editoriale del momento, 4 ristampe in 20 giorni, si intitola Decapitati, perché abbiamo la classe dirigente che non ci meritiamo. Diamo il benvenuto a Giovanni Floris. Ciao Giovanni. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Allora, ci piaceva partire dalla riflessione che tu hai fatto sulla classe dirigente, tu l'hai allargata, non solo di politici parli, ma per classe dirigente cosa intendi? Chi etichettiamo con questo termine? La classe dirigente è un ambiente, un insieme di persone che contano, per dirla in maniera molto semplice, da quelle che contano di più, cioè i politici, perché prendono le decisioni fondamentali per una collettività, fino però a quelli che contano da un'altra parte per ragioni economiche, come gli imprenditori o i sindacalisti, oppure gli intellettuali, oppure chi fa radio come te. Ecco, questa una classe dirigente. Iniziamo a responsabilizzarti. Sì, esatto. Non so se i nostri ascoltatori ci meritano, noi crediamoci almeno noi. E il tuo però non è solo un atto d'accusa, nel senso che sei anche propositivo, una sorta di fotografia. Beh, è un po' andare avanti. Sentiamo tutti che c'è un ricambio nell'aria, che c'è una classe dirigente che ha finito un ciclo, e questo lo sentiamo soprattutto per la classe politica. Si reagisce alle volte con fastidio, alle volte con amarezza, però abbiamo tutti capito che chi ha comandato fino adesso, e non parlo di Silvio Berlusconi punto, ma di un ambiente, di un centrodestra e di un centrosinistra, di una certa classe dirigente di queste aree politiche, abbiamo capito tutti che c'è un momento di ricambio alle porte che sta per arrivare. Io penso al dopo, cerco di organizzare il dopo, immaginando quale possa essere una figura che serva al paese, riflettendo su quello che è successo prima, cioè prendendo tre crisi del passato, il dopoguerra, gli anni di piombo e il 92, tre crisi terribili che ha vissuto il nostro paese. Noi ne siamo sempre usciti con delle leadership che io nel libro chiamo normali, cioè De Gasperi, Pertini, Ciampi, delle figure di persone che semplicemente si sono messe là, si hanno iniziato a lavorare su un paese che era in grave difficoltà e che piano piano, passino dopo passino, l'hanno portato fuori. Ecco Giovanni, volevo con la nostra riflessione portarti oltre confine, quindi non parlare solo d'Italia ma anche di Europa, di leader europei. Tu stai seguendo e segui non solo col tuo programma ma anche insomma professionalmente, quotidianamente, quello che l'Europa ci fa vedere, quello che l'Europa ci chiede, quello che l'Europa ci dice. In Europa abbiamo una classe dirigente che ci meritiamo, vedi differenze rispetto all'Italia, ma anche senza fare il confronto, cioè se uno ti chiedesse i leader europei, qual è la tua fotografia? Allora, innanzitutto la classe dirigente possiamo non meritarcela, ma è colpa nostra se sta là. Cioè probabilmente noi ci siamo distratti per troppo tempo, abbiamo lasciato allo stesso posto le stesse persone per troppo tempo, adesso noi abbiamo bisogno di altro, ma loro stanno sempre là, ma loro li scegliamo noi, in politica eleggendoli, negli altri ambienti promuovendo un ricambio che non c'è stato. Ora io devo dire, prendiamo la risatina di Sarkozy di cui parlavate prima, secondo me quella fotografa due inadeguatezze. La prima è di Sarkozy, perché un capo di Stato non deve gestire in questo modo le proprie emozioni, non deve far trapelare un giudizio così brutto su un collega e su un paese. La seconda inadeguatezza naturalmente è di Berlusconi, che nel lungo periodo stratifica dei comportamenti per cui non solo Sarkozy ma anche l'intera sala stampa, basta una smorfia e tutti capiscono cosa Sarkozy vuole dire e gli vanno dietro nella risata. Poi c'è la Merkel che con imbarazzo si cerca di tirare fuori, poi c'è l'Europa. Io, diciamo, per esperienza di quando, soprattutto prima di Ballarò, viaggiavo molto, non ci sono paesi meglio dell'Italia, e questo non vuol dire che l'Italia è la migliore, vuol dire che più o meno siamo tutti nella stessa barca. È vero che ci sono momenti in cui le classi politiche si guadagnano un'etichetta, il momento in cui viviamo adesso è un momento estremamente negativo per la nostra classe dirigente, che si è guadagnata un'etichetta estremamente brutta nel resto dell'Europa. Ma ci saranno momenti in cui gli europei, insomma, si sapranno qualificare anche loro. Mm-hmm. Ecco, la domanda che come Euronet, come network europeo ci stiamo ponendo è: i leader europei crolleranno sotto la pressione o saranno in grado di restare uniti abbastanza per arrivare a una soluzione della crisi? Non credo che tu abbia la domanda, però magari hai una tua suggestione. Non abbia qualcuno la risposta, crollerà. Scusa. Sì, qualcuno crollerà e qualcuno no. E quelli più adeguati. Guarda, la crisi è un momento in cui si fanno i conti, non è il risultato finale, non è il voto finale di un esame, la crisi è l'esame. Quando arrivano queste crisi, cade chi è debole e chi ha i conti praticamente mal disposti. È caduta la Grecia, prima era caduta l'Islanda, vi ricordate? Certo. E ci sono state crisi molto dure in Irlanda, in Spagna, in Portogallo, ora c'è in Italia. qualcuno come la Spagna è bastato dire: guardate, ci siamo resi conto, abbiamo sbagliato tutto, a novembre andiamo a votare. È bastato questo, cioè la presa d'atto degli errori che erano stati fatti, perché i mercati credessero nuovamente nella Spagna. Da noi non c'è una presa d'atto. Da noi c'è un dire: guardate che gli altri sono... Noi abbiamo detto per 3 anni che gli altri stavano messi peggio di noi. Queste cose a noi, una giornata che finisce un ballarò, qualcuno è rimasto convinto e qualcuno no, dal messaggio che siamo meglio degli altri. Ma i mercati non si basano sui talk show, i mercati non si basano sugli articoli di giornale, i mercati si basano sui dati di fatto. Quando poi tu vedi che cosa è stato fatto in questi 3 anni, che non ci sono state le riforme, che le tasse sono salite, che la crescita è scesa, questi sono i dati che valutano i mercati. I mercati non gliene importa niente se al governo c'è Silvio Berlusconi o Pierluigi Bersani. Ai mercati gli interessa vedere che cosa fai. Nel momento in cui si diffonde il panico della crisi, chi non fa rimane sotto. In questo momento noi stiamo rimanendo sotto. Qual è il leader europeo che vorresti avere seduto sulla tua poltrona di cartone in studio a Ballarò? Ah, come ospite, sì. Non che sogno come capo del governo mondiale. No, te la evito. Beh, vorrei avere la Merkel. Sì, eh? Ti sì, la stiamo invitando da 6 mesi, ma naturalmente ancora non se ne parla, speriamo bene. Però la Merkel ci sa... mi sembra che sia quella che sta mostrando un certo equilibrio. Non sfrutta il momento difficile dell'Italia per tirarsi fuori dai guai come ha fatto Sarkozy, mantiene un equilibrio, dimostra di credere nell'asse con Napolitano e quindi sembrerebbe quella che al momento ha le idee più lucide. Prima di salutarci, Giovanni, un'ultima domanda. Non ho ancora letto il capitolo relativo a Francesco Totti, al tuo capitano. Lo hai difeso. Ce n'è solo uno. Sì, c'è solo un capitano. No, io cerco di trovare le leadership in tutti gli ambienti, oltre quello della politica, in cui possano mettersi in luce. Quindi li cerco nell'impresa, nel sindacato, le caratteristiche della leadership, nella chiesa, nella criminalità e poi anche nel calcio. E là ci sono dei paragoni, anzi dei paralleli, i capitani alla Zoff e alla Cannavaro, i leader alla Totti o alla Baggio o alla Pelé o alla Maradona. Okay. E Totti, diciamo, si piazza bene. Sì. Ti emoziona, cambia la voce, cambia la voce quando pronunci la parola a Totti. Giovanni Floris, Decapitati, edito da Rizzoli. Grazie davvero Giovanni, ciao e ciao, buon Federico, sabato. Ciao, a presto. E continuiamo a parlare di Europa, continuiamo a parlare di leader, di leadership, ma soprattutto di quelle che sono le reazioni in queste ore in Europa, ore di crisi, ma le decisioni, le scelte che sono state prese, che sono state fatte in queste ore, hanno portato qualche visione di serenità. Cosa raccontano le testate, le principali testate europee, soprattutto in Francia e in Germania, ma magari anche in altre nazioni fortemente coinvolte, tipo la Spagna e l'Inghilterra? Per saperlo abbiamo invitato il responsabile delle pagine europee di Internazionale. Diamo il benvenuto ad Andrea Pipino. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, come stai? Bene. Allora Andrea, come sempre, come ogni mattina hai sfogliato alcuni dei quotidiani appunto europei, ti ho chiesto se potevi dare un'occhiata in questi giorni, quelle che sono un po' le reazioni proprio su questo tema, crisi e crisi di nervi, questa entità che si chiama Europa, come sta reagendo, e cerchiamo di capirlo appunto con i titoli di alcuni dei quotidiani delle nazioni più coinvolte. Dunque, sta reagendo con l'accordo di pochi giorni fa con un po' di sollievo, molto scetticismo e nessun ottimismo per il futuro comunque. E questo è un discorso che vale per tutti i grandi paesi più o meno coinvolti dalla crisi. Ovviamente il paese che si pone maggiormente il problema e che discute di più di questi argomenti è la Germania, perché anche quello che si sta assumendo il peso sia politico sia economico più consistente di questo pacchetto di salvataggio. E anche lì, anche se i giornali, i commentatori ammettono che quello che è stato fatto, sia il rafforzamento del fondo salva stati, la ricapitalizzazione delle banche e la cancellazione di una parte del debito greco andava fatto, ammettono gli stessi commentatori anche che tutto questo molto probabilmente non è sufficiente né a tranquillizzare i mercati né arrivare a una soluzione se non definitiva almeno di medio periodo, e sono tutti più o meno convinti che fra pochi mesi, poche settimane ci ritroveremo nuovamente a discutere di quello di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi, e probabilmente serviranno altri summit europei per gestire la situazione. Sì. Più o meno questo è quello che scrivono tutti i giornali. La TAS, la Tageszeitung, è convinta che la crisi peggiorerà perché i soldi che sono stati messi sul tavolo con il rafforzamento del fondo salva stati non sono sufficienti, e mentre invece la Süddeutsche, il quotidiano di Monaco, è leggermente più ottimista e dimostra e scrive che almeno, insomma, con questo accordo, anche se a ribasso, l'Europa ha dimostrato comunque di essere ancora viva. Poi ci sono altre opinioni, c'è quella della Berliner Zeitung che denuncia l'ipocrisia e le contraddizioni di questo meccanismo che è stato messo in moto dalla crisi. Il paradosso sia che i governi cercano di comprare la fiducia dei mercati con dei soldi che a loro volta devono prendere in prestito. Quindi, insomma, anche questo è un punto di vista piuttosto pessimista. Tutti sono convinti, sono d'accordo nell'affermare che molto più della Francia il vero ruolo guida in questo momento difficile spetta proprio alla Germania e quindi al governo della Merkel. Certo, due sguardi rapidi, Inghilterra e Spagna. Sì, l'Inghilterra chiaramente osserva gli avvenimenti dell'ultimo periodo e la crisi dell'euro da osservatore esterno, perché chiaramente non è direttamente coinvolta. Quello che però questa crisi sta facendo riemergere in Inghilterra è la fronda delle componenti euroscettiche che sono presenti tanto nel partito laborista, ma soprattutto all'interno dei Tory. Di recente il Parlamento ha votato contro una proposta che era stata avanzata proprio dall'ala euroscettica dei conservatori su un possibile referendum per decidere la permanenza dell'Unione Europea, della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Per adesso il problema è stato risolto, però certo Cameron si trova a dover fare i conti con un'ala del proprio partito che è risolutamente euroscettica, che vuole rinegoziare i trattati di partecipazione all'Unione Europea, quando addirittura proprio non uscire dall'Unione Europea. E poi ci sono queste cose che sono successe nei giorni scorsi, il litigio con Sarkozy, di cui hanno parlato tutti i giornali europei, certo, su come la Gran Bretagna, secondo la Francia, si sta immischiando in questioni che non le riguardano, quando mette bocca sulla crisi dell'euro. Una notizia invece, un titolo dalla Spagna? In Spagna ieri si discuteva molto del fatto che la disoccupazione è arrivata a toccare quota 5 milioni, cosa che non era mai successa. E questo è l'argomento, e chiaramente è molto legato alla crisi dell'euro, e quindi tutti i commenti spagnoli sull'accordo che è stato raggiunto a Bruxelles insistono su un fatto. Uno dei difetti che poi tutti in realtà trovano nell'accordo che è stato fatto, ossia il problema della crescita. L'accordo non fa abbastanza per rilanciare la crescita, e questo chiaramente in Spagna forse, diciamo, è il tema più sensibile, a cui sono più sensibili gli spagnoli, tutti, da destra o da sinistra, dal País a BSE. Perfetto, grazie davvero ad Andrea Pipino di Internazionale. Ricordiamo che la stampa estera potete leggerla anche sul sito di Press Europe, presseurope.eu, lo trovate anche nel portale di Euronet. Ciao Andrea, grazie, buon sabato, alla prossima, ciao. İşte o an deprem böyle salladı. Yıkılmayan, ayakta kalan binaların içinde sağlam eşya kalmadı. Ve kameraman o zor şartlarda kayıttaydı. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, facebook.com/l'altraeuropa, le nostre pagine ufficiali. Andiamo là dove l'Europa sarà, andiamo in Turchia, dove domenica scorsa un terribile terremoto ha colpito la provincia di Van, e a 6 giorni dal terremoto, e volevamo capire qual è la situazione, e per farlo abbiamo invitato un corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso dalla Turchia, in questo momento si trova a Istanbul. Diamo il benvenuto ad Alberto Tetta. Ciao Alberto. Buongiorno a voi. Tu sei stato testimone diretto del terremoto che ha colpito domenica la Turchia. Qual è la situazione attualmente? Allora, prima di tutto purtroppo dobbiamo partire dal bilancio delle vittime, che è aumentato. Ad oggi sarebbero 576 morti accertati e 2600 i feriti. E oltre questo dato tragico, però, il comunicato della Protezione Civile turca dà anche una notizia positiva, cioè quella di 187 persone estratte vive dalle macerie, l'ultima l'altro ieri a 108 ore dal sisma. E quindi però la situazione rimane difficile, anche se Havana e Erciş, i centri urbani più colpiti, stanno cominciando ad arrivare gli aiuti, ci sono le prime tendopoli, invece rimane molto difficile la situazione nei paesi e nelle zone più periferiche della provincia di Van, colpita dal sisma, dove continuano a mancare le tende e in alcuni paesi si continua a scavare con le mani. Una regione già povera di per sé e per più devastata da questo sisma, ma è una strage annunciata, nel senso è comunque una zona fortemente sismica, una zona dove le case sono costruite non con i giusti criteri. La popolazione come ha reagito? Allora, era noto già da tempo che quella zona, ma in generale tutta la Turchia, è una zona sismica, soprattutto dopo il terremoto del 17 agosto del 99, in cui sono morte decine di migliaia di persone. Insomma, quell'evento sarebbe dovuta servire da lezione per costruire in maniera antisismica, invece questo non è stato fatto. E solo del 9% degli edifici a Van infatti era antisismico, e solamente uno su quattro a livello nazionale è stato costruito a prova di terremoto. Il primo ministro turco Erdogan ha dichiarato in questi giorni, l'altro ieri, che in Turchia è ora della tolleranza zero per l'abusivismo edilizio, e soprattutto si è riferito al fenomeno delle baraccopoli, dei gecekondu, come si chiamano in turco, che circondano le maggiori città dove vivono centinaia di migliaia di persone, e ad anche Havana e Erciş la maggior parte delle vittime sono proprio morte nel crollo di queste baracche nei quartieri intorno al centro. Le persone non erano preparate al terremoto, perché appunto neanche dal punto di vista della educazione e alla maniera di comportarsi davanti a un sisma è stato fatto niente. E anche polemiche in Turchia sulla tassa speciale sui terremoti, istituita dopo il sisma del 99, e sono stati milioni di lire turche, milioni di euro raccolti attraverso questa tassa speciale, e questi soldi dovevano servire per misure antisisma, e invece sono scomparsi e utilizzati per altri scopi, non per mettere in sicurezza gli edifici. Certo, ma tu, Alberto, durante il terremoto ti trovavi proprio lì, lo hai vissuto in prima persona? Sì, io sono arrivato lunedì, il giorno dopo il terremoto, che è stato domenica verso le 5 del mattino. Io ho visto quanto, insomma, il ritardo nei soccorsi, e soprattutto per quanto riguarda la città di Erciş, ho trovato una città completamente rasa al suolo. Non esiste più un edificio praticabile. Per me, io sono rimasto lì qualche giorno, ho dormito in macchina l'altra notte, la notte prima ho dormito nella tendopoli di Erciş, perché tutti gli alberghi sono, insomma, la maggior parte degli alberghi sono chiaramente pericolanti, e quindi i proprietari non prendono la responsabilità di affittare le camere. Per darti un dato sulla distruzione che c'è lì, ti posso dire che secondo quanto annunciato, gli edifici che sono stati visitati dalle autorità, i dati che ci arrivano da questa indagine dicono che su 10.000 edifici, circa 10.000 edifici della provincia di Van, 5.700 sono inagibili, quindi più della metà degli edifici presi in considerazione in queste ore dagli ingegneri che stanno cercando di capire quali sono agibili o meno, più della metà sono inagibili, quindi la situazione di distruzione è sotto gli occhi di tutti. Certo, tante polemiche, i ritardi del soccorso, ma non solo, anche proprio polemiche politiche, perché quella che ha tremato è la terra dei curdi. Tu ora ti trovi a Istanbul, lo hanno sentito come un terremoto loro, nel senso ha coinvolto l'intera Turchia, o comunque è una strage di periferia e così viene vissuta anche dai turchi nella capitale? Bene, allora prima di tutto parliamo un attimo del sud-est della Turchia, maggioranza curda. C'è un conflitto in quella zona dal 1984, sono state più di 40.000 le vittime negli scontri tra esercito e indipendentisti curdi del PKK. Una guerra che continua e continuano gli attacchi dei guerriglieri curdi, e proprio a fine agosto c'è stato un attentato molto, diciamo, molto grosso in cui sono morti 24 soldati turchi e dopo è iniziata un'operazione militare su larga scala in cui sono coinvolti 10.000 soldati che sono entrati in nord Iraq e nella zona maggioranza curda. Quindi in questi giorni è in corso una recrudescenza del conflitto, sì, del conflitto armato. La risposta da parte della società turca a questo terremoto è stata di due tipi. C'è stato un grande sentimento di solidarietà e una corsa all'aiuto, alle donazioni. Per darti un dato, c'è stato un programma, un Telethon per i terremotati trasmesso da 19 canali in cui sono stati raccolti 22 milioni di lire turche, cioè circa 8 milioni di euro in donazioni da parte delle persone. C'è stata una mobilitazione in questo senso molto importante, però purtroppo non sono mancati neanche messaggi di odio contro i curdi e messaggi razzisti come quello di Mugyal, una conduttrice del canale turco ATV, che durante un talk show ha detto: ci sparano sulle montagne, sparano e uccidono i poliziotti e ora che hanno un problema ci chiedono aiuto. Sono parole molto dure e significative insomma di quelle che sono le posizioni, no? Quella che è un po' anche la rottura. Sì, è di un sentimento che non è solo quello di una singola giornalista, ma della parte più nazionalista della società turca, che anche su Twitter e Facebook ha mandato messaggi di odio commentando la notizia del terremoto. Quindi c'è anche stato questo, purtroppo, questo fenomeno e questa risposta negativa da parte della popolazione. Certo. Terminata l'emergenza, ci sarà poi la ricostruzione, bisognerà offrire anche degli scenari, delle possibilità a questa popolazione. Grazie davvero Alberto per la tua testimonianza. Ricordo che tutti i reportage di Alberto Tetta si possono leggere sul sito www.balcanicaucaso.org. Ciao Alberto, buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Beh, in chiusura di questa puntata dell'Altra Europa non potevamo non parlare di Halloween, questa festa che ormai è invasa l'intero continente, mille sfaccettature, mille idee per festeggiare Halloween. E beh, in Romania credo che abbiano avuto per ora l'idea più bella, e sono dei tour e alla scoperta di Dracula. Questa è un po' la provocazione turistica che è stata organizzata, la Transilvania appunto come meta ideale per festeggiare Halloween. C'è un sito, un portale che organizza tutti gli Halloween tour. Questa è un po' la colonna sonora che è stata realizzata per accompagnare le offerte e i pacchetti turistici. Per capire bene quello che si potrà fare, quello che accade in questi tour, ma soprattutto cosa c'entra Dracula con Halloween, questo connubio, perché è stato creato, abbiamo invitato Corina Hampton, di lavoro e ricercatrice universitaria di letteratura italiana e anche appassionata di cultura locale. Credo che in minima parte abbia anche collaborato con la realizzazione di questi programmi, di questi pacchetti turistici. Ciao Corina. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, Halloween e la Transilvania, la zucca e Dracula, cosa avete ideato? Che idea avete avuto? Questa compagnia con cui ho collaborato qualche volta, cioè The Company of Mysterious Journeys, la compagnia dei viaggi misteriosi, ha pensato di fare un tour dedicato appunto alla festa di Halloween. Comunque bisogna dire che insomma da noi, come un po' dappertutto, è una festa commerciale, non c'è niente di locale. Esatto, sì. È una festa recente anche. Sicuramente sì. E quindi comunque l'agenzia di cui parlo, che è apparsa all'inizio degli anni 90, ha avuto quest'idea di delimitare la figura del personaggio di Dracula da quella di un principe locale, il principe Vlad, che non c'entra per niente con questo personaggio del romanzo gotico di Bram Stoker. Mm-hmm. E comunque l'idea era che c'erano tanti turisti che dopo aver letto il romanzo di Stoker venivano qua curiosi di scoprire Dracula. Insomma, l'agenzia ha avuto l'idea di offrirle l'occasione di fare un po' di turismo culturale, cioè di fare un giro per il paese in cui scoprire tanto i luoghi collegati al romanzo di Bram Stoker, che peraltro non è neanche stato in Transilvania, per lui la Transilvania è una cosa di finzione, e scoprire i luoghi legati al principe Dracula. Sì. Uh-huh. Ma quindi il famoso Vlad l'impalatore non c'entra nulla con Dracula? Non c'entra per niente, no. Oh. L'unica cosa che hanno in comune è questo suo nome Dracula, sì, che poi derivava dal fatto che suo padre era cavaliere dell'ordine dei draghi e quindi recava sul petto un drago. E la gente comune che non sapeva cosa fosse un drago lo ha chiamato Dracul, quindi un demonio sarebbe in romeno, e quindi suo figlio, che è Vlad, è stato chiamato Vlad Dracula, il figlio di Dracul, cioè. E a Bram Stoker è piaciuto questo nome esotico e ha pensato di collocare in questo spazio esotico, insomma, dell'altra Europa, appunto, sì, un personaggio di un romanzo gotico, questo vampiro sanguinoso. Ho capito, ma di per sé, al di là di Dracula, Vlad è un personaggio interessante, che comunque attira turismo al di là dell'assonanza con Dracula? Sì, perché la sua figura è legata a moltissimi monumenti del nostro paese, monumenti che appunto i turisti possono scoprire in questo tour di Halloween, è legato alla città di Bucarest, è legato alla città di Târgoviște, dove ci sono alcune rovine del suo castello, è legato, e cioè importantissimo, al castello di Poenari, che la leggenda dice che lui abbia fatto erigere dagli aristocratici infedeli della sua corte, e quindi da quelli che l'avevano tradito. È una leggenda. Quindi esistono anche aspetti seri, insomma, in questo tour turistico. Sicuramente sì. In questo caso bisogna dire sì che non si tratta di cose puramente commerciali. Le guide sono specializzate. Di solito sono persone con una laurea di storia, quindi si tratta di un approccio molto serio, non è una semplice vacanza di svago, è piuttosto una vacanza culturale. Ecco, Corina, ne approfittiamo, visto che sei qua con noi, perché la Transilvania sempre viene associata a Dracula, per errore, sì, come tu ci hai spiegato. La Transilvania che cos'è? Com'è? Ci puoi far vedere una cartolina di questa regione? Si tratta della parte di nord-ovest della Romania, ed è una parte ricchissima di storia. Ci sono tantissime cose lì da vedere, questa è una cosa che i turisti che vengono a visitarla apprezzano molto, cioè la gente viene senza sapere molto, sa insomma di questo Dracula, che il romanzo di Stoker ha reso così famoso, e poi scopre tantissime cose. Scopre per esempio la città di Sighișoara, che è una delle più belle città medievali del sud-est dell'Europa, che si è conservata benissimo ed è tuttora abitata. Oppure scopre anche le bellezze naturali, tipo Pass Burgoli, cioè le montagne, e anche lì si possono vedere le bellezze della natura. Oppure, non so, si può scendere quando torni a Bucarest, puoi fermarti nella città di Brașov, sempre vecchissima, dove si trova la cattedrale gotica che è situata, l'ultima cattedrale gotica dell'Europa, è la più inoltrata verso l'est. Ho capito. E Corina, festeggerai Halloween tu? Io no, perché come dicevo è una cosa, non è una cosa locale, non la sentiamo come tale. Però c'è tantissima gente che insomma partecipa ai vari balli in maschera che i club bucarestini, insomma, di tutto il paese organizzano. Personalmente no. Ok, un'ultima domanda, una curiosità personale. Tu appunto sei ricercatrice universitaria di letteratura italiana e appassionata di cosa? Qual è il tuo autore preferito, quello che più hai studiato? Grazie della domanda. Io mi interesso al Medioevo, per questo sì. Insomma, e comunque mi interesso molto anche, ho studiato anche letteratura anglosassone, perciò mi interessano anche queste cose collegate, insomma, al mito di Dracula. Poi devo dire che i turisti che vengono a fare questi tour sono per lo più anglosassoni, americani, britannici. Ho capito. Nella maggior parte. E vanno a casa delusi perché scoprono che Dracula appunto non viveva lì. Succede. Grazie. Però scoprono altro. Hai ragione. Grazie. Grazie Corina, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente grazie in una delle prossime puntate grazie. Dell'Altra Europa. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. E finisce qui la puntata. Un grazie a Margherita Ina che con me l'ha scritta con la collaborazione di Viola Frifa, Peter Bescapè alla parte tecnica, Giorgio De Luca oggi in assistenza. Radio24.it è il nostro sito, potete riascoltare la puntata da lunedì oppure ci trovate in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. Ancora ciao da Federico Taddia.